rotto i coglioni con questo programmino. Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina. Poi ti spruzzo l'autan. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda. Basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto è re. No, non ho detto gioia. Buonasera a te e tutti i radioascoltatori. Buonasera, allora, siete due facce di merda, ovviamente. Allora ragazzi, se c'è una cosa, intanto David Parenzo è in collegamento da Pescara oggi, da Pescara. Buonasera, città. Buonasera a lei, buonasera ascoltatori, città Pescara, nota. Vabbè, non ce ne frega annunzio, niente adesso, non ce ne non frega per niente. Non d'annunzio, ma per razzi. Benissimo, benissimo. Allora, David Parenzo in collegamento da Pescara, solite marchette che fa in giro per l'Italia. Marchette ma... un cazzo, Festival delle Letterature. Bene, bene. Tu non sei stato invitato perché non sei considerato un letterato. No, c'ero l'anno scorso. Allora... infatti hanno sbagliato e non ti hanno invitato quest'anno. No, abbiamo sbagliato Cruciani, abbiamo sbagliato, guarda. Allora, una cosa per cui gli italiani si incazzano, sì, come belve di solito, sì, sono le multe, no? Anche se uno ha torto. Mamma mia, ho pagato 5, ma lascia stare, guarda. Ecco appunto, no, ma... io sono diventato talmente ligio e mi spaventano a tal punto le multe che vado, bravo, subito a pagare anche quando ho torto. Bravo, cioè per non, bravo, avere problemi, Equitalia, eccetera, eccetera. Pazzesco. Allora, nei giorni scorsi, poi ci sono alcuni comuni che addirittura lo fanno apposta, multarti per prenderti dei soldi, sì, no? Per fare cassa. Certo. Però non è il caso, non è il caso del sindaco di Roma, Ignazio Marino. Cosa è successo, sì, amico mio? Abbiamo qui una notizia in esclusiva. La notizia è molto semplice. Dopo un inchiesta portata avanti dalle Iene sul pass, cioè sulla macchina del sindaco parcheggiata, era un privilegio al Senato, lui diceva aver motivi di sicurezza, in realtà questi motivi di sicurezza c'erano e non c'erano, eccetera, eccetera. La bicicletta, lui. Vabbè, comunque questa macchina adesso non è più parcheggiata lì. Per un periodo però questa macchina, una Panda del sindaco Ignazio Marino, sostava senza permesso, cioè il sindaco si è dimenticato, non l'ha fatto, si era dimenticato di rinnovare il permesso che a Roma si chiama ZTL per l'ingresso, per l'accesso nel centro storico di Roma. Esattamente dal 24 giugno al 28 al 20 agosto 2014. Questa è una certezza. La certezza che ci hanno dato le Iene. Eccolo qui, Dino Giarrusso, sentitelo. Ma i privilegi legati alla macchina di Marino non finiscono qui. Abbiamo incontrato il senatore Morra, che quest'estate ha girato un video inquadrando il permesso ZTL, cioè la zona a traffico limitato, dell'auto di Marino, e come data di scadenza portava il 23 giugno. La cosa strana è che se oggi vai a vedere quando è stato rinnovato quel permesso d'ingresso ZTL, scopriamo che è stato rinnovato il 21 agosto. Ma è mai possibile che la macchina di Marino sia stata con il permesso scaduto dentro la zona ZTL per ben 2 mesi? Sapete cosa succederebbe a un cittadino normale senza permesso ZTL? Quindi sarebbero sempre 80 euro al giorno con rischio ganasce. Allora, amici miei, la notizia è questa, ce la dà un'interrogazione parlamentare, in realtà di un senatore del nuovo centrodestra che si chiama Augello, il quale chiede di verificare che cosa. Sentite. A seguito di questa mancanza, cioè il rinnovo del permesso di Marino, inevitabilmente rilevata dai varchi elettronici posti a presidio della ZTL, secondo notizie raccolte dall'interrogante, cioè da Augello, al sindaco sarebbero state levate diverse contravvenzioni tra giugno e luglio 2014. Il sindaco Marino, sempre secondo informazioni raccolte dall'interrogante, si sarebbe ben guardato dal pagare il dovuto, visto che allo stato risultano almeno 8 contravvenzioni tra il 26 giugno e il 25 di luglio. Amico mio sindaco, ci vuoi spiegare se hai pagato o no Sembra di no, se queste multe sono state pagate oppure te le sei fatte cancellare. 8 multe, secondo questa interrogazione parlamentare, tra il 24 giugno e il 20 agosto 2014. Perché sai, i cittadini sono molto incazzati quando si parla di multe. E se tu ti sei fatto togliere le multe, cioè se le multe non sono state pagate perché tu hai fatto zac e le hai fatte cancellare, e le hai fatte cancellare, beh, la cosa diventa interessante, diventa molto molto grave. Aspettiamo risposte, ovviamente. Ma ieri ci siamo dimenticati una cosa clamorosa, caro Parenzo. Una cosa clamorosa. Come abbiamo fatto a non pensarci? Come abbiamo fatto a non pensarci? Cosa è successo? Beh, c'era una canzone da mettere. Una canzone da mettere, questa. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato. Un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato. Tu gelato al cioccolato. Canzone da mettere ieri sulla vicenda Madia, eh? Sì, questo è vero, questo Beh, è vero. Bravo, diciamo la verità. Perché secondo me la storia. Questa è una buona battuta, nonostante tu sostenga tesi abominevoli, ma questa è una. Sì, però battuta. Tutto andava riconosco affrontato da chiunque, anche dalle più incallite, feroci avversarie di Signorini oggi, ieri. No, ma non è così. Aspetta, sì, ma c'è tempo, ma non ti preoccupare. L'intervista di Signorini. Beh, stupenda, stupenda. Signorini. Sono d'accordo alla mia al 200%. Giudice, alla mia amica sono giudice, d'accordo. Ricordo al 200%. Ma falla ascoltare, fai giudicare il aspetta, popolo della Zanzara. Aspetta un attimo, ti dico solo una cosa. Ti dico solo una cosa. Mandiamo solo una cosa di Signorini, poi abbiamo un ospite. Mandala. Aspetta. Ci ho marciato, Signorini, ci ho marciato. Però non tu ci hai marciato su questo doppio senso, quindi. Certo che ci ho marciato, ma ovviamente che ci ho marciato. La considerazione ludica è che io rivendico il mio diritto al divertimento e a far divertire. Quello è un servizio onestamente divertente. Mi sono occupato di sberleffi, non soltanto relativamente al ministro Madia, ma anche per esempio a Belen, a Valeria Marini. Nessuno si è mai sollevato quando mi occupo di Belen o della Marini, perché esistono forse donne di serie A e donne di serie B? Beh, questa cosa, diciamo, gli sberleffi esistono da quando esistono i giornali di gossip. Era uno sberleffo e così andava trattato, come un semplice sberleffo. Però ci sarà modo, perché adesso abbiamo un ospite, caro Parenzo. Dunque non cominciare le tue solite discussioni filosofiche su questa cosa. Abbiamo quando, già dato ieri. Mi darai la parola, no, ma torniamo perché ci sono due ore e mezzo. Ci sono due ore e mezzo. Andare avanti fino a mezzanotte stasera, perché dalle 20:30 te lo anticipo fino alle 21, fino alle 20:50 sarò in viaggio con una persona speciale, sarà un grande racconto in strada, on the road, con un grande protagonista di questa sentiremo, città. Sentiremo, sentiremo. Abbiamo con noi, direttore? Come va? Come va? Ma come volete che vada? On the road. Sei on the road pure tu? Sei... Direi di sì. In mezzo alla strada pure tu, dai. Insomma, in mezzo alla strada sarebbe metaforicamente parlando e non tanto metaforicamente parlando. Appunto, t'hanno messo in mezzo alla strada, dai. T'hanno buttato in mezzo alla strada. Sono in mezzo alla strada e metà, non ancora. Beh, diciamo, come t'hanno trattato? Mediaset, come t'ha trattato? Diciamola subito chiara, dai. Ne ha fatto una più di Bertoldo, dai. Su, aspetta, adesso, fermo. Come ti hanno trattato le Iene? Sì, le Iene, scusa, c'ho in testa le Iene, Mediaset. Le Iene, non so se mi hanno trattato, non lo so da che parte, è che è un periodo in cui sono stato, dalla condizione in generale, sono stato maltrattato. I miei guai sono cominciati naturalmente con l'inchiesta, bunga bunga, eccetera, mi sono trovato improvvisamente nella difficoltà, pensate, che il mio avvocato, o la mia avvocata, mi ha presentato, come amica, una parcella di 450.000 euro. Cioè tu mi stai dicendo che hai da pagare una parcella del tuo avvocato che per adesso ti ha fatto condannare in primo grado, mi sembra? No, mi ha lasciato a metà di processo. Ah, ti ha lasciato pure a metà di processo e ti ha fatto una parcella di quanto? 300.000 più 150.000 di spese. Cioè mezzo milione di euro? Circa 500.000 euro con sequestro conservativo ingiuntivo. È arrivato poi. Sì. Con, cioè, in questo momento ti hanno sequestrato che cosa? Scusami. Tutto ciò che poi avevo in banca. Cioè? Io avevo 600.000 euro in banca. Sequestrati, sì. Fermi, bloccati? Bloccati. E poi? 20 anni. E lo stipendio pure? Mi hanno sequestrato. Sequestro conservativo, sì, per circa 500.000 euro. Sì. Mi ha sequestrato lo stipendio e mi ha sequestrato un quinto della pensione. Cioè, mi stai dicendo che il tuo avvocato, che poi ti ha lasciato a metà strada nel processo Rubi, dove sei stato poi condannato e ci sarà la sentenza d'appello giovedì prossimo, andrai da Santoro. Certo. Mi stai dicendo che il tuo avvocato all'epoca ti ha chiesto 500.000 di parcelle e ti hanno bloccato tutto. Lei sempre sequestro. Come si chiama st'avvocato? Si chiama, lo devo dire? Eh beh, certo. Si chiama Nadia Lecce, che era una mia carissima amica. Ho capito, ma ammazza che amica, oh! Parenzo, ma pensa agli amici, cioè, è una roba pazzesca. No, ma non lo so, infatti devo avere paura di te, io ce l'ho infatti. Perché ma io non ti porterò mai in tribunale, amico mio, non ti porterò mai. No, ma voglio dire questo. Al massimo ci lasciamo abbracciandoci con qualche baffanculo, al massimo può succedere quello, questo. Va bene, no. Un attimo solo, c'è il traffico, ma torniamo subito. Allora, la notizia è questa, Emilio Fede dice... Il mio avvocato mi ha mostrato una parcella di 500.000 di euro e mi hanno pignorato praticamente tutto. In più lo stipendio che finisce. Emilio, ma più in mezzo a una strada di così, che vogliamo dire? Cioè, stai con i cartoni quasi. Poi vedremo se in realtà stai con i cartoni. Polvere di stelle, cose che finiscono. Caro Emilio, è finita, Ma guarda, con Mediaset è finita. Ma no, guarda, come i no? Grandi ricordi, ma io a Mediaset sono nella storia di Mediaset, ho tanti amici, tanti affetti in Mediaset. Ma ti ha chiamato Silvio in questi giorni? No, credo che abbia cose in questo momento ben più importanti che chiamare me. E poi, ma un po' ti dispiace che non ti abbia fatto manco una telefonata, diciamo la verità. Io voglio molto bene a lui e ritengo però, che lui ne voglia anche molto a me. Non può la nostra amicizia per nessuna ragione essere tradita. Parlo della mia amicizia con lui, ma non soltanto. D'accordo, però ti saresti aspettato, Emilio, un messaggio, una roba? Ma io mi sarei aspettato di non vivere questo momento difficile. D'accordo, ma un messaggio da Silvio, una parola. È vero che avete un processo in comune, eccetera, sì, eccetera, però sì, una parola, un messaggio si può fare senza violare nessun tipo di norma, o no? No, non lo so, però per quanto riguarda problemi di norma, essendoci la sentenza. Però silenzio totale? Beh, direi quasi. No, quasi, sì. No, totale, non proprio, totale. Non proprio. Ma umanamente te l'aspetti un messaggio da Silvio? Sì, perché io credo che... Un SMS almeno. Io e lui abbiamo un legame di affetto disinteressato. Che secondo me non può essere tradito. Senti, però possono allora, avere tradito. Vabbè, lì si va sempre sulle cose di cui abbiamo parlato. Chi è il burattinaio dietro questa operazione? No, ma io non lo voglio neanche dire. Talmente, guarda, la giornata di oggi è talmente importante, drammaticamente importante, ma anche di riflessione. Ma la lettera ti è arrivata a proposito? La lettera è arrivata. È arrivata la lettera di licenziamento. Me la puoi leggere, per favore? Sì, allora, Cologno Mosese, 30 ottobre sì, 2014, dice... È stato reso noto che presso la Procura della Repubblica di Milano è pendente un'inchiesta a suo carico per sì, associazione a delinquere a scopo di diffamazione. Tale circostanza, ad avviso del Consiglio di Amministrazione RT, rende impossibile la prosecuzione del rapporto collaborazione coordinata e continuata tra lei e la società scrivente. Tutto scatta dal, dal 31, cioè è stata scritta il 30 e scattava dal 31. Dal 31 ottobre? Sì, il giorno dopo. Dal giorno dopo. Basta, basta, punto, in fede, chi firma? Beh, c'è uno scarabocchio che insomma, non dico il nome. No, come no? No, non lo dico perché... guarda, posso dirvi questo. Scusa, ti fanno fuori, ti fanno fuori per un'inchiesta praticamente. No, c'è un'inchiesta, ma non che io sia, come si dice, indagato. Comunque, la notizia è che è arrivata la lettera di licenziamento. Quando è arrivata? Ieri? Questa lettera è arrivata ieri, sì. Ma insomma, andrai per avvocati o no? Ti opporrai a questa cosa o no? Dimmelo subito. Beh, io sto cercando naturalmente un minimo di giustizia. Dopo tanti anni non si esce così di scena. Avvocati. C'è ma quello sì, da pagare. Il problema degli avvocati li vorrei anche evitare. Perché io una cosa certamente non vorrò fare. Quello di portare in tribunale una società... Beh, però mi stai dicendo che non lo escludi. Fatti difendere dall'avvocato Di Pietro. Di Pietro è avvocato, fatti difendere dall'avvocato di Pietro. Ma tu ridi, ma l'altro giorno fa Tele Lombardia, Di Pietro, Antonio Di Pietro, si è alzato e ha detto: Emilio Fede è una persona per bene, io lo conosco, abbiamo avuto anche dei contrasti, li abbiamo superati e sapete che vi dico che se mi chiede lo difendo io. Ma chi? Antonio Di Pietro. Cioè, ha detto che ti vuole quindi difendere. Quindi nominerai Di Pietro come difensore? Beh, no, ho detto, non è che nomino Di Pietro come difensore, ma per dire, visto che però diciamo la verità, c'è la possibilità che tu porti Mediaset in tribunale per questa roba qua? Addirittura, ma scusa. 10%. Se, in cambio che vuoi, soldi? No. No. Un po' di soldi vuoi? No, assolutamente. Senti, ma come fai con la casa adesso? Perché lo sai, è vero. Fra le cose che io... lo so, è stato scritto. Devo rinunciare, è l'appartamento che abito da 20 anni. Ecco, io spero che tutto questo non avvenga, che ci sia un ripensamento. A Milano 2? Sì, a Milano 2, perché qui ho, diciamo, questo spazio verde. Mezzo al verde. Molti come l'occupante abusivo, lì adesso si parla molto degli occupanti abusivi. No, però scusami un attimo, Emilio, allora tu ti hanno detto che devi andare via da questa casa, no? Tu hai un'altra casa a Milano, hai un'altra casa? Sì. Ho una casa bellissima a Milano, un appartamento bellissimo a Milano. Dove? Lo usufrutto in corso Plebiscito, lo usufrutto perché è, diciamo, nuda proprietà a mia figlia. Io, ma è vuota adesso? Come? È vuota? È bellissima, è vuota, non è bella di più, ma attenzione. Ma com'è arredata? È arredata stupendamente, arredata da mia moglie che è la donna più... E perché non ci vai subito, scusa, ad abitare lì? Sai perché? Manca un po' di verde attorno. Attenzione, certo, questa casa non è il contratto principesco che dicono. Questa casa io l'ho acquistata quando stavo ancora in Rai, ma certo, e certo. Poi a Rete A, quindi assolutamente no. E poi guarda, anche essere finito sui giornali, però c'ho tempo ancora di stare in questa casa, sai fino a quando? Fino a quando? Massimo? 30 novembre. Un mese. Un mese, allora, ma come fai? Scusa, che vuoi chiedere se subentri nell'affitto? Che ne so, una cosa del genere? Bravo, ma che sei tutto? Ma lo so, intuisco. Stai registrando come intuito. Intuito. No, scusa, sì, io ho chiesto, va bene. Quanto costa l'affitto lì? 2005, credo. Ma com'è? Ci riesci adesso? Come fai senza stipendio? Scusa. Beh, ho la pensione. Ah, vabbè, certamente. Cioè... che è pignorata però, in parte. Sì, adesso devo pignorare tutto. Ma scusa, la macchina senza autista come fai? No, niente, via tutto. Via tutto, e senza autista adesso come fai? Assolutamente. Era col taxi. Come fai senza autista? Guarda, hanno scritto delle cose assurde. Ma come farai senza autista adesso? Prendi il taxi. Certo. Comunque... Guarda, io posso dire questo, voglio dire, esattamente, è venuto tutto esattamente come il 28 marzo di 3 anni fa, la stessa identica cosa. Però io a Corso Plebiscito è meglio, almeno non ci possiamo vedere di più, cioè più al centro, eccetera, ma vacci su. A 2 passi da San Babila. Ma è fantastico, una casa favolosa, mi hai detto. Ma ci sono dei pezzi cinesi, ci sono dei pezzi cinesi dentro, mi hai detto. Ma sì, ecco, te l'ho detto io, sì, ci sono dei... Ma me l'hai detto una volta. Cinesi che mia moglie aveva portato dalla Cina. Ah, ma obbligate, ma che aspetti, stare lì... Con un proiettore nel Duomo di Messina hanno proiettato delle minchie finte. Siete la spazzatura radiofonica italiana. Siete proprio una cosa abominevole, siete una merda proprio. Ciao Crucials! Voglio benissimo, viva la topa! Understand? Ormai è tutto degradato. Allora ragazzi, la difesa di Alfonso Signorini, direttore di Chi, caro Parenzo, in collegamento da Pescara. Guarda, c'è un dramma in corso, cazzo. Che è successo? Che è successo? Ho perso la chiave della stanza. Ah, beh, allora siamo una cosa molto grave. Cioè, il signor Parenzo, che alloggi in un lussosissimo albergo a Pescara, ha perso la chiave della stanza. Ma la chiave si recupera, basta andare dal concierge, basta andare nella zona. No, ma non vorrei tediarti con questo. Siccome, come tu hai detto, l'albergo è importante, non hanno quelle chiavi, sai, quelle chiavi elettroniche. Hanno quelle chiavi antiche, perché è un locale storico della città, quindi hanno quelle aperture, non quelle aperture volgari. Ma è uguale, avranno un doppione, signori, no? Ma se tu perdi la chiave, quella... Vabbè, ti faranno pagare, una ventina di euro, amico mio. Capisco che... La Zanzara ha prenotato Cruciani. No, ma non è vero. Sì, lui aveva prenotato. Ma non è vero! Adesso, puoi parlare un attimo, ti prego, che hai più soldi di me, puoi parlare un attimo col consigliere. Dammi un attimo il telefono, sì, per favore. Grazie. Aspetta che sono uscito, che non vorrei che... No, dammi il telefono. Ritaggo secondo. Su. Sì, sì. Vado sì. Su. Da concierge, sei sicuro? Sì, vai, certo, aspetta. vai. Non vai. Vorrei che adesso mi... Aspetta, intanto... Sì. Oh, ci sei arrivato dal concierge o no? Signor concierge, scusi, c'è il collega Cruciani della radio che vorrei un attimo parlare con lei. Grazie. Pronto? Scusi, buonasera. Prego, buonasera, mi dica. Siccome il signor Parenzo ha perso le chiavi della stanza... No, ma non c'è problema, le ho rifatte, non si preoccupi. Come ha fatto a rifarle? Sono quelle elettroniche, allora? Sono quelle elettroniche. Ma allora che cazzo dice? Ha detto che erano quelle vecchie, quelle di ferro. Sta ridendo, infatti, sta qui. Mamma mia. Mettetegli un sovraccarico sul conto a suo nome, una ventina di euro, una trentina di euro. Lui si sente male appena sente un sovraccarico sul conto che non deve pagare lui, Ma che albergo è? Lussuoso? Com'è sta albergo dove sta? Siamo abbastanza lussuosi, abbastanza. Cioè, il miglior albergo di Pescara. A Pescara non ci sono belli alberghi di solito, Lo so, sono d'accordo con lei. Lo so, io non me ne intendo di queste cose. So. E che albergo è? Scusi, che albergo è? È in Plaza. Cari amici operai, amici dell'Ast di Terni, Parenzo è ospite. Sì, grazie, è ospite del migliore albergo di Pescara, cari amici metalmeccanici. Cari amici metalmeccanici. C'entra, vabbè, allora... Aspetta, la difesa di Signorini, direttore. Scusa, di chi? Fratello, hai da accendere per caso. Vabbè, ho capito, ma ragazzi, ma mi dobbiamo fare migrante. La trasmissione, non possiamo. Amico migrante. Come di che? Chi è l'amico migrante? Abulai, aspetta che te lo passo la ricordo. Ma non voglio Abulai. Sì, è un ambulante, no? Sì, dammi Abulai. È la Zanzara, è il signor Cruciani, una brutta persona, però alla radio. Abulai, aspetta che ti sì. Pronto? Abulai? Sì. Ciao Abulai, tu che sei? Algerino, tunisino, senegalese, che sei? Non senegalese. Senegalese, ma ce l'hai i permessi? No. Cioè sei non ho capito, sei clandestino? Sì. Ma com'è, scusa, sei clandestino? Ma devi uscire, perché non torni in Senegal? Mi dai il biglietto, torno subito. Ah, perché non vuoi più stare in Italia? No. Cioè perché sono stronzi gli italiani, perché? No, non lo so, dammi il biglietto e me ne vado. Ma quanto guadagni ogni giorno? Che vendi? Che vendi lì? Io non lo vendo, io ce l'ho permissione regolare. Cioè, ma come? Ma hai detto che non ce l'ha? Sì, stai scherzando, vabbè. Ciao, Bulai. Vabbè, dai ragazzi, su, basta con queste puttanate. Signorini, dai. Ma cosa? Ma come l'hai trattato? Ma no, benissimo l'ho trattato. Tornatene in Senegal, a parte che l'altro... No, non ho detto tornatene in Senegal, ho detto vai in Senegal, sei clandestino, tu vai via, sei clandestino irregolare. Ma clandestini irregolari vanno presi e riportati nella terra d'origine. È un migrante che stava lavorando... Irregolare, vende prodotti contraffatti probabilmente. Paga le tasse? Tu che sei così ligio, paga le tasse, chiedigli, paga le tasse? Paga le tasse, il signor ambulante? Hai il diritto di non pagarle, perché vuole entrare... Ha il diritto di non pagare le tasse? Perché lui prova a inserirsi nel mondo del lavoro, prova in un paese in cui non c'è lavoro, lui comunque si arrabatta, credo. Che vergogna, le sue cose, che vergogna. Si arrabatta, fa le sue cose, vabbè. Fa le sue cose, non ruba. Perché non ruba. Però vende e cose contraffatte, vende cose... Ho capito, però vabbè però, TG3, dai che stai tossendo, TG3, dai. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Nubifragio a Roma nel primo pomeriggio, strade allagate nella zona sud, violenta grandinata a nord, allerta meteo fino a mezzanotte, domani riaprono le scuole. A Carrara si contano i danni dopo l'esondazione del Carrione, la rabbia degli abitanti per le denunce inascoltate sulle crepe del muro di contenimento del torrente. Allarme OCSE, l'Europa stagnante mette a rischio la crescita mondiale. Draghi, la BCE è pronta a misure straordinarie e scoppia il caso fisco facile in Lussemburgo. Renzi, mai detto che Bruxelles è un covo di burocrati, ma liberino i fondi per investire. Contestazioni davanti all'Alcatel, poi il Premier incontra i sindacati. Centinaia di lavoratori delle acciaierie di Terni a Roma per la trattativa sugli esuberi. Vertenza aperta, ma si sblocca il pagamento degli stipendi. Consulta, prima fumata bianca, eletta Silvana Sciarra, non passa la candidata di Forza Italia Stefania Bariatti, al CSM Alessio Zaccaria, indicato dai 5 Stelle. Dopo la sconfitta del midterm, Obama punta a collaborare con i repubblicani, nel referendum cresce il fronte pro-marijuana per l'aumento del salario minimo. Allora Emilio, Emilio Fede? Eccoci. Ma che mi hai detto prima nell'intervallo? Che cos'era il fido, i soldi? Che cos'era? No, stavo dicendo, perché mi ha chiamato, chi mi ha chiamato, del fatto dei soldi che sono stati ipotecati, come sì. Dice, 600.000, sì, che a sua volta è un fido, capito, sul quale io pago naturalmente anche gli interessi. Cioè stai in mezzo, insomma, stai in mezzo a una strada, in guarda, pratica. Senza stipendio, sì. Da subito. Sì. E comincia a diventare difficile pagare le rate e tutto quanto, quindi quando io sento dire e come farai, scusa? Ma guarda, non lo so, certamente vabbè. Mia moglie una mano me la dà, certamente troverò anche da fare delle cose, insomma, ma comunque... hai fatto una vita principesca però, Emilio, dai. Ma in che senso, entravo alle 10 del mattino alla redazione del TG4, uscivo alle 10 di sera, ho lavorato per 23 anni, ho fatto se no 18 giorni di vacanza, cioè quello che si è, guarda, posso dire una cosa, ma non se avessi per... davanti quel personal trainer che ti ha creato questo casino con le foto, cioè, che sì. Cosa faresti, se ce l'avessi davanti in questo momento, cosa faresti? Guarda, io mi auguro di averlo davanti di fronte a un giudice, perché io l'ho denunciato già. No, ma se ce l'avessi davanti fisicamente, in una stanza chiusa, che gli faresti? Che gli faccio? Quello c'ha i muscoli e c'ha la svastica. Come la svastica? Pure la svastica c'ha. Pure la svastica c'ha. Certo, posso dirti una cosa? Aspetta, però, aspetta, mi ha chiamato una persona, Emilio. Emilio, sì. Cioè, una persona che ti può dare una mano in questo passaggio difficile tra una casa e l'altra. Guido Bagatta, Guido, come... Guido Bagatta, pronto, Guido Bagatta, pronto. Lo vedo sempre qui, beh, come faccio a lasciare Guido Bagatta, io che sto a Milano 2, bello lui, bella lei, forse più bella lei di lui. Ma bella lei chi, scusa? Beh, posso dirlo? Beh, certo, lo puoi dire. Compagna, moglie, fidanzata, non so cosa sia. Allora, Guido, sì. Tu dov'è che abiti? Di fuori a 2 metri da Emilio Fede a Milano 2? Ha attraversato il giardino, io sono scala 1, lui sarà poi alla 6, non lo so. Sì, sì, è vero, vero, vero, vero. Allora... di un po' che si può se fare. Se il direttore vuole, noi lo ospitiamo volentieri. Una camera, direttore, c'è sempre. Poi, se proprio non hai veramente nulla da fare, Margot, che è l'altra bellezza che io, sai che ho due donne, no? C'è un cane, Margot, sì, c'è un cane, sì, che si chiama Margot. Margot che ti adora da morire, ti ricordi in giardino? Come no, tanto ho giocato con lei, perché anche noi abbiamo il nostro Teodoro, il nostro Cocker, è vero, ci facciamo una bellissima ci facciamo compagnia da tanti anni, poi siamo usciti un po' da un certo... Beh, insomma, voglio dire... Vabbè, ma comunque Guido ti sta offrendo, se proprio dovessi non dovessi farcela a lasciare Milano 2, Guido, che possiamo fare? Una camera, colazione fa con me... I cornflakes vanno bene, direttore? Come che cosa lei? I cornflakes, cornflakes. Ah, per bacco, sì, ci vado matto. Ma che vai matto, è una vita che non li mangi. La colazione e poi niente, poi il giorno può fare quello che vuole, insomma, lo aspettiamo noi. Ho parlato anche con Francesca, d'accordo. Francesca è la fidanzata che guarda, fra poco... Questa è una cosa carina, perché lo posso dire, non è un gioco, loro lo pensano veramente. E le mie difficoltà, tutto ciò che io ho passato con una storia per bene, che oggi mi trovo, dici, in mezzo a una strada, e tecnicamente, non metaforicamente, però in mezzo a una strada. Ma come ti hanno trattato questi? Come una bestia ti hanno trattato? No, ma no, guarda, la parola è su un giornale, è venuto fuori come un animale. Io volevo dire, un animale viene trattato meglio, giustamente. Beh, e allora è peggio. No, volevo dire che gli animali si trattano meglio, giustamente. Però scusa, fai un appello a Silvio, Francesca. Ma se l'azienda, scusami, però. Vabbè, ma questo chi se ne frega adesso della questione in sé? Ma se l'azienda dice ci sono dei problemi negoziare in corso con il nostro ex dipendente. Vabbè, ma questo se la vedranno in tribunale, però io voglio chiedere a Emilio una cosa. Fai un... adesso, dato ci sta ascoltando sicuramente, Francesca. Lei con la giustizia, Radio 24 farebbe la stessa cosa. Vabbè, ma lascia perdere il contenzioso, chi se ne fotte. Emilio, voglio capire una cosa. Fai un appello a Silvio adesso. Di a Silvio qualcosa. A lui, Silvio il grande? Il grande, il capo, sì, il capo assoluto, sì. Ma guarda, lui sa benissimo chi sono, come sto, ma io so benissimo che in questo periodo ha delle difficoltà, diciamo, dal punto di vista politico. Capito, chiamami, fammi un altro contrattino, lo vorresti un altro contrattino più piccolo? No, ti no. Posso dire no. No. Io vorrei che mi si desse quel che mi si doveva, perché i soldi? Mi scadeva, no, te lo dico, mi scadeva il contratto a fine giugno, mi mandi via 7 mesi prima, a me bastava, pensa cosa avevo chiesto. Ah, ho capito, avevo i soldi fino a fine giugno. No, i soldi fino posso a... dire, avevo chiesto soltanto di poter prendere a mie spese, proseguire l'affitto in questa casa e quel tanto che corrispondeva ai 6 mesi, 7 mesi che mi mancavano. Ridatemi 7 mesi, dimmi Guido, che c'è, Guido, che c'è? Aspetta. No, posso dire una cosa, visto che lo vedo spesso in giardino, ti ricordi l'antica pubblicità di una cera con i Brutus che dicevano: nonostante tutte le botte che hai preso, hai sempre una buona cera? Il direttore, nonostante tutto, però ha sempre un aspetto, è sempre un bel homme, è sempre, sempre sorridente. Beh, ma c'ha sempre l'occhio, hai visto? È l'occhio verso la tua fidanzata, l'ha buttato, verso la Francesca. Per carità, com'è la fidanzata di Bagatta? No, lui è un bell'uomo e lei è una bellissima donna. Vabbè, ciao Emilio, ti devo salutare, vi abbraccio, grazie a tutti. Grazie dell'ospitalità, ciao. Ma l'operazione la venga a prendere. Vi aspettiamo. Ciao. Avete rotto il cazzo, parlate sempre di froci, di razzi. Io voglio che parlate di cose interessanti. Vi voglio sentire un'altra volta i bevitori di piscio. Che tempi, amico mio, che tempi. Vabbè, sentiamo la senatrice Taverna dei 5 Stelle, sulla fiducia messa dal governo sul decreto sull'economia. Vai, Taverna, dittatura di un premier col manganello. Siamo alla follia, diciamo la verità. Questa è la dittatura di un premier che pensa che con i manganelli ci butta fuori da qui. Non butta fuori nessuno, né i lavoratori né i parlamentari. Noi siamo qui per portare la voce dei cittadini e i cittadini fuori da qui non ne possono più. Lo capissero questi 4 privilegiati della cassa. Allora, nel frattempo, Parenzo, ho parlato con il senatore Augello. Sì. Perché, ripeto, oggi abbiamo scovato un'interrogazione parlamentare dello stesso Augello e abbiamo reso nota in esclusiva, dopo una lunghissima inchiesta delle Iene ovviamente, sull'auto di Marino. Marino, secondo questa interrogazione, non avrebbe pagato 8 multe il sindaco di Roma, cosa che sarebbe gravissima. Molto grave. Perché tutti i cittadini pagano le multe puntualmente e anche il sindaco, che non aveva rinnovato il permesso per accedere al centro storico con la sua Panda, che pure era parcheggiata al Senato in un posto dove non, eccetera eccetera eccetera, come è stato documentato dalle Iene, questa macchina è stata segnalata e ha subito 8 multe, ha preso 8 multe, queste multe non sono state pagate. Allora mi ha spiegato il senatore Augello che cosa? Che o ha fatto ricorso, ma non può fare ricorso perché altrimenti si dovrebbe dimettere, oppure il comune ha agito con una formula che si chiama l'autotutela. Cioè il comune ha agito cancellando, sospendendo queste multe. Ma scusami, non può fare ricorso il sindaco come qualsiasi cittadino? No, perché si dovrebbe dimettere, perché dovrebbe essere poi il sindaco contro il comune, cioè contro se stesso. Certo, chiaro, bravo Augello. Però molto ancora non riesce a spiegarsi Augello, per questo il significato di questa interrogazione è come sono, come mai queste multe, siamo a novembre, non sono state pagate, alcune di queste multe risalgono addirittura al mese di giugno. Probabilmente, mi diceva, gli uffici di Marino stesso si sono dimenticati del rinnovo del permesso di ingresso ZTL. Comunque Marino ci deve spiegare queste multe che fine hanno fatto, perché non sono state pagate. Un sindaco può non pagare le multe, 600 euro di multe? Bravo. Dai, su. Marco, provincia di Venezia, dai. Buonasera, buonasera Giuseppe. Mi sembra, sono un po' arrabbiato lei con te, mi sembra un po' banale il problema delle multe del sindaco. Secondo me un sindaco, posso perdonargli il fatto che si dimentica di rinnovare il permesso della ZTL. Personalmente sarà perché ho una famiglia numerosa, ma a Marino avrei da rimproverare ben altre cose. Sì, ragazzi, ma non, perché ogni, per ogni cosa poi c'è una questione di benaltrismo? Certo che ci sono tanti problemi, ma un sindaco deve essere, come dire, deve fare oltre quello che fanno i cittadini, cioè deve essere più ligio dei cittadini stessi. Se sì, sono state Italia, comminate delle multe, ci sono problemi più Marco, gravi. A me non mi interessa la questione della macchina. Un sindaco deve parcheggiare dove parcheggiano tutti i cittadini, oppure deve essere portato dall'auto blu, se ne ha diritto, dentro il comune. Primo. Secondo, deve pagare le multe come pagano tutti i cittadini, se sì, sono state combinate. Sono d'accordo, ma nel senso, secondo me, i problemi italiani sono ben più gravi. Ma, esempio, non ce ne eravamo accorti che erano più gravi. Ma cosa c'entra? Ha fatto un bellissimo esempio. Gli avvocati, scusi, che non hanno un sistema di pagamento sul loro. Vabbè, ma chi se ne frega, mica vado a parlare a Focus Economia di questa roba qua, che ce frega a noi. Ma il punto fondamentale è un altro, Marco. Allora, io sono convinto che la maggior parte delle persone che ci seguono e che pagano le multe, che sono fessati da Equitalia, eccetera, eccetera, di fronte a un sindaco che, punto interrogativo, forse non ha pagato 8 multe per un totale di 600 euro che gli sono state comminate, secondo quanto ricostruito la trasmissione delle Iene, perché ha parcheggiato la sua macchina senza il titolo d'ingresso, beh, la gente si incazza, la gente si incazza. E ha ragione. Marco, Salvatore da Milano, vai, Salvatore. Sì, buonasera. Niente, vuol dire solo questo, della vicenda Signorini, penso che la cosa scandalosa sia che appunto sia stato deferito all'ordine dei giornalisti, perché questo presuppone che lui sia un giornalista. Certo che è un giornalista, certo, ha fatto un sacco di scoop che lei se li può scordare in tutta la vita. Ma guardi, è giusto il procedimento. Sì, infatti. Il procedimento è una vergogna. Esatto. Signorini è un giornalista, ci sono vari tipi di giornalista. Ma guarda che il procedimento non vuol dire condanna, come noi sappiamo benissimo. No, il procedimento è un procedimento fazioso, è un procedimento chiaramente... Il procedimento è volto ad accertare se è una richiesta giornalistica o no. Ma no, quindi ben venga il procedimento, come lo abbiamo accettato noi nelle cose. Io non ho accettato un cazzo, scusa, purtroppo lo devo accettare per forza. Ma no, io l'ho accettato, faccio parte dell'ordine dei giornalisti. Tu hai accettato, tu accetti tutto. No, tutto no, niente, perché mi sono difeso e sono stato assolto. Va benissimo, ma io lo farò lo stesso nel cosiddetto processo disciplinare. Io penso che molti Signorini facciano, non fare l'avvocato di Signorini. Non lo sto facendo, io faccio l'avvocato. Signorini, premio Pulitzer. Ma non è premio Pulitzer, non è questione. Una signora che lecca un gelato non è una notizia. Oddio, che coglioni, che palle con sta storia. Salvatore, basta, dai, dimmi. Basta. No, volevo solo dire, ma il procedimento comunque è stato fatto da dei giornalisti. Senti, ci occupiamo di non notizie tutti i giorni, dunque non dire puttanate, dai Salvatore, dai. Ci occupiamo di non notizie tutti i giorni, per cui non è che ogni cosa è una notizia, non c'entra niente, dai, su. Va bene, niente, allora E comunque Signorini dice una notizia, sentite. Ma lei è un giornalista o un paparazzo? Dobbiamo definire la categoria, cioè il giornalista cerca la notizia, non va a cercare per forza. È una notizia che la Madia mangia un gelato? Assolutamente sì. Un ministro della Repubblica? Assolutamente sì, per me. Ma ha ragione lui, qualsiasi foto che ritrae un personaggio pubblico in un certo tipo di posa può essere considerata notizia. Ragazzi, ma è disdicevole quello che hanno scritto. Ma quella è una battuta, è una battuta. Allora lo fa il vernacoliere, lo fa. Ma che vernacoliere? Il vernacoliere lo fa. Il giornale Cuore, che era un giornale satirico. Roberto da Milano, adesso ci dici tu i giornali che la possono fare e che non la possono fare. Ma ci no, fai l'elenco di prescrizione, certo, la lista di proscrizione. Roberto da Milano, dai, ma forza. Ma quale lista di proscrizione? Sì, ascolta. Io, quella ministra che è rappresentativa di quelle stronzette sempre di sinistra, sai, quella Concita, la Melandri, che hanno sempre sido hanno quell'aria di sufficienza, ma e cosa la c'entra? È molto lunga. Questa qui si è fatta pizzicare in una condizione vergognosa, perché non ho vergognosa. Che vuol dire vergognosa? Stava mangiando gelato, dai. Cose ufficiali, qualsiasi qualsiasi carabiniere, qualsiasi uomo della truppa, ma che ha una divisa e che rappresenta lo Stato, lo sa che non si mangia il gelato in pubblico. Vabbè, questa è una puttanata, dai. Ma questo è pazzo. Vabbè, Roberto, questa è francamente una puttanata. Con l'imbecille che... di Parenzo, perché i governi sono... Non si mangia il gelato in pubblico. Stai tranquillo, aspetta. Da dei dilettanti, degli imbecilli, addirittura non c'era mai stato un imbecille come due turni fa a capo del governo, e abbiamo avuto anche quello. Allora, vabbè, adesso questo lei sta allargando la questione. Lei sta dicendo, siccome la Madia è una ministra, non può mangiare il gelato in pubblico, esatto, pena il fatto, esatto, di essere pizzicata dai fotografi. Ma su questo non c'è minimo dubbio, non è che non può. I fotografi possono ritrarre un ministro mentre mangia il gelato. Qui si sta discutendo non delle foto, che peraltro erano delle pose con gli occhi chiusi, dunque chiaramente hanno preso le pose più significative per poi spiegare il titolo, ma il problema, come diceva Parenzo prima, è il titolo di anche le foto, ma insomma il titolo, le foto sono una che mangia gelato, è chiaro che poi il titolo fa tutto, no? Ci sa fare col gelato, la ministra ci sa fare col gelato, lo stesso Signorini dice che è una cosa esplicita, anche la scelta degli scatti è fatta in modo, ragazzi, volutamente... stiamo parlando di chi ma cosa c'entra? Non è che puoi fare uno che defeca in mezzo a una strada, ma non è la stessa, ma stai esagerando, stai veramente esagerando, stai esagerando. Hanno preso per il culo, lo ripeto, ma... per l'ennesima volta hanno massacrato per anni e anni donne esponenti del centrodestra con foto, pose, ammiccamenti, riferimenti, e non sto facendo l'esempio del Calippo, anche se si potrebbe fare, l'abbiamo già fatto ieri, in mille modi, senza che nessuno dicesse nulla. Parenzo, tu da quant'è che non scopi? Adesso se continuiamo a mettere questa cosa, questo è il regista che ti vuole male, eh? Questo è una sbassima, è un regista simpatico. Il regista nostro della maglia, della banda della Magliana. Ma Aspetta, cioè, ecco, noi Vittorio Feltri, buonasera Vittorio, ciao. Buonasera a tutti voi. Come andiamo? Ciao, come andiamo? Trionfo assoluto. Mi fa pazzire perché Vittorio è sempre di un ottimismo sfrenato, cioè è sempre di uno, cioè, c'è proprio la... Perché ti credo? No, perché dirige, sta come un passato. Ma dirige o non dirige più una mazza, per fortuna, no, sua. Perché è direttore, autorevole, fa i cazzi suoi, scrive quello che gli pare, sta alla grande, che deve fare. Ma no, ma c'è gente che si deprime anche per anche in questa condizione. È un uomo libero, chi se ne frega, fa quello che gli pare, fonda giornali, vende copie, mangia bene, fuma sigarette. No, che... Sigarette sì, no, sigari stavi dicendo. Sigari, no. Anche sigari. Ma una canna, facciamoci una canna ogni tanto, una volta, Vittorio, che dici? Non c'è niente di... Bravo. All'amor di Dio. No, ma tu sei uno di... non te la sei mai fatta una canna in vita tua, no? No, me ne sono fatta una volta con i miei figli. Addirittura? Sì, vedi che è liberale, vero? Una sera abbiamo aspettato che mia moglie se ne andasse a dormire perché non avrebbe sopportato una cosa simile. Dopodiché ho fatto vedere in che cosa consiste questa canna. Ma chi c'era? Mattia, chi c'era? C'era Mattia, c'era Fiorenza e Saba. Sì, grandi. Saba. E allora lì hanno acceso questa schifezza e abbiamo cominciato a passarcela l'un l'altro per aspirarla, eccetera. Io la terza boccata, disgustato, mi sono rivolto a Mattia, che è un collega, no? Sì, come no, certo. E gli ho detto: senti Mattia, dammi una Marlboro, perché questa schifezza qui è una cosa da muratori, ho detto. e da quel giorno in casa mia sono sparite canne, eccetera, i miei figli non hanno più fumato perché gliel'ho talmente svaccata la canna che l'hanno considerata una schifezza anche loro, e credo di aver fatto grande modello educativo il papà, che guarda veramente grande, voglio fare anch'io così con però figli. C'è il caso anche che qualche padre dice: ma buona questa qua, fumiamocene un po' durante, cioè non è che esiste solo il caso di Vittorio, esiste. Devo dire la verità, che mi ha fatto veramente schifo quella roba lì. Perché tu sei... Guarda, anch'io ho provato qualche volta, ma non ad aspirare, perché non aspiro mai niente in vita mia. Non... Sì, ma non sono buone, fa schifo, non lo so. Beh, hanno un odore forte, la canna ha un odore forte, bisogna che... Apparenza... Ma l'effetto... Beh, l'effetto un po' stranisce. Beh no, perché non hai aspirato magari bene. No, io figurati, io aspiro da quando ho 14 anni sigarette di tutti i tipi, sigarette toscane, pipa e tutto, quindi proprio l'ho trovata disgustosa la canna, non produce effetti simpatici, per cui ho trasmesso questi concetti anche ai miei figli e in effetti non hanno più... Adesso lo chiedo a Mattia se non si è più fatto canna. No, vedrai che non ne frega niente, si fa un whisky piuttosto come faccio io. Whisky, sì, whisky, grande passione di Vittorio, soprattutto l'Afroaig. Sì, anche il Kaolai, la Gavoli, non è che ne beva tanto, però insomma è molto meglio di una canna. Di una canna, cioè whisky meglio delle canne, non fatevi le canne, fatevi whisky con moderazione, sempre ovvio, con moderazione. Sì. Senti, io voglio capire da Vittorio Fetti, perché qui c'è una situazione bizzarra, ci siamo scannati in questo oggi, soprattutto ieri con Parenzo, sulla questione della foto della Madia. Io non ho, come dire, non sono amico fraterno del signor Signorini, non ho, neanche tu, sì lo so, neanche tu, però a me non me ne frega niente in questi casi, quando c'è un principio da difendere secondo me va difeso anche di fronte ai peggiori nemici. Allora la questione è molto semplice, secondo te ha fatto una porcata oppure no? No, ha fatto il suo mestiere, sappiamo anche che chi è un giornale particolare che vive di gossip, pertanto anche il titolo che è stato molto criticato in fondo può essere soltanto accusato di volgarità, ma se dovessimo, diciamo così, perseguire attraverso l'ordine dei giornalisti la volgarità, credo che anche passeggiando per la strada, se uno è vestito male lo devi sottoporre a un procedimento disciplinare, cioè la volgarità non può essere condannata, non è un reato la volgarità, cioè per esempio le mie scarpe ogni tanto tu mi denunceresti, io mi denunceresti, una canzone te la darei, però mi trattengo. Cioè tu dici ci sono molti giornalisti che si vestono malissimo. Beh, tu sei trattato, no, io no. Tu dovresti imparare anche nel vestirti. No, nello io mi vesto benissimo, tranne no, ti vesti molto male, hai quei capelli io. Che sono tutti, ma che c'entri i capelli, ma che c'entri i capelli con la barba, cioè sembri un barbone della centrale. No, ma scusami, aspetta, definiamo parliamo dei signorini. No, sì, allora la questione è molto semplice. Di consigliare qualche vestito dal signor Feltri, scusa. Cioè, uno ha l'indignazione di politiche, politici, personaggi del mondo della cultura, Massimi Gramellini, eccetera, eccetera, che si indignano per la battuta, per il titolo sessista, ci sa fare col gelato. No, ma chi se ne frega, un gelato è un gelato, voglio dire. In un paese di leccaculo come il nostro, poi uno non può leccare il gelato, scusa. È una cosa assurda. No, ma voglio dire, se... È una battuta che va bene per il vernacoliere, ma direttore. Smettila. Scusi, ma mettiamolo sul vernacoliere. Anche il vernacoliere, allora bisognerebbe arrestarseli tutti. Oggi Serra ha scritto un articolo anche ben fatto, intendiamoci, ben argomentato. Però non sta in piedi, perché qui siamo di fronte a una signora che si mangia un gelato. Al massimo bisogna stabilire se l'automobile è un luogo privato e quindi non la puoi fotografare, oppure se è un luogo pubblico, in quel caso non c'è nulla da dire a Signorini, mica lo potrai perseguire perché ha fatto una cosa volgare, una cosa di cattivo gusto. Il cattivo gusto non è perseguibile, esatto. È questo. Ma a me che mi frega, posso criticare Signorini per la scelta che magari non mi va, poteva evitarsi anche quel titolo, però non è che lo posso condannare. Tra l'altro vorrei ricordare che Signorini proprio sul suo giornale fece un servizio su di me mentre ero seduto al ristorante bolognese in Piazza della Repubblica, quindi un luogo privato, no? Sì. Ed ero al tavolo con l'onorevole Melania Rizzoli, allora sì. Onorevole Melania Rizzoli, e la quale aveva sul dito di una mano un brillante. Io scherzando le presi la mano e le dissi: guarda, ti vorrei fare non il baciamano ma il mangiamano, sperando che mi resti in bocca il diamante, ecco. In quel momento mi fotografarono e finì in un servizio molto ampio proprio su chi, e il titolo era Feltri scala la Rizzoli, che non è un titolo dal significato molto diverso rispetto al gelato, perché uno che scala la Rizzoli cosa vuol fare con la Rizzoli? Che e nessuno fare? Disse nulla, l'ordine non intervenne, i grandi giornalisti commentatori di sinistra non aprirono bocca, quindi questo significa che certe cose si possono fare a sinistra, mentre invece se ne fa qualcun altro, chi se ne frega. Ma tu per quella cosa te la sei presa con Signorini per quel servizio? Ma no, non me la sono presa, perché cioè, ha fatto il suo mestiere, che può essere considerato bello, brutto o sporco, ma cosa potevo fare? Al massimo ho potuto meditare una vendetta, ma oggi che mi è capitata l'occasione di parlare di lui, anziché attaccarlo come avrei preferito, l'ho difeso. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Allora, ricordiamo quella che è stata la notizia che abbiamo dato in esclusiva all'inizio di questa trasmissione. Secondo un'interrogazione recuperata dalla Zanzara e diffusa dal sottoscritto su Twitter, il sindaco di Roma Marino non avrebbe, perché ovviamente bisogna dimostrarlo, ma c'è un'interrogazione parlamentare di Augello, senatore del Nuovo Centrodestra, che ha condotto tutta l'inchiesta e anche le Iene ovviamente sulla macchina, sulla Panda parcheggiata al Senato, gratuitamente al Senato, la Panda rossa. Il sindaco Marino non avrebbe pagato le multe, 8 multe che gli sarebbero arrivate per non aver rinnovato il permesso nel centro storico. Le Iene. Ma i privilegi legati alla macchina di Marino non finiscono qui. Abbiamo incontrato il senatore Morra, che quest'estate ha girato un video inquadrando il permesso ZTL, cioè la zona a traffico limitato, dell'auto di Marino, e come data di scadenza portava il 23 giugno. La cosa strana è che se oggi vai a vedere quando è stato rinnovato quel permesso d'ingresso ZTL, scopriamo che è stato rinnovato il 21 agosto. Ma è mai possibile che la macchina di Marino sia stata con il permesso scaduto dentro la zona ZTL per ben 2 mesi? Sapete cosa succederebbe a un cittadino normale senza permesso ZTL? Quindi sarebbero sempre 80 euro al giorno con rischio ganasce. La gente di Roma che è in collegamento, e non solo quella di Roma, tutta la gente che paga profumatamente multe, ingressi, eccetera, chiede al sindaco Marino una sola cosa: queste multe le hai pagate o no? Sembra di no, le prime multe sono di giugno, siamo a novembre. Marino, dai, sentiamo come scappa le Iene. Sindaco, buonasera. Sono stati 30 senatori, signor sindaco, che hanno fatto una lettera per fare togliere la sua macchina dal Senato. Non le sembra un privilegio un po' odioso? Perché i residenti, signor sindaco, perché può mettere la macchina al Senato? Perché non la metti in un garage? E perché è stata 2 mesi senza permesso ZTL, sindaco? Ma non male così, dai, no, non si pensava male, Al sindaco Marino, assessore della macchina, proprio non vuole risponderci. Forse un motivo c'era. Caro Marino, paga il multino. Beh, ma ormai non si può più pagare se le fate togliere, eh. Cioè, se le ha sospese, eccetera. Abbiamo con noi un danno all'erario, però. Beh, assolutamente, 600 euro. E che cavolo, Marino, ma anche se ti hanno fatto 600 euro di multe che ti sono arrivate, ma tirali fuori questi soldi. Tra l'altro, Vittorio avrebbe fatto, mi rivolgo a Vittorio Feltri, avrebbe fatto una gran figura. Perché pensate un po' a che grande operazione di immagine, no? Tu spendi 600 euro del tuo stipendio da sindaco, eccetera eccetera, e vai con le telecamere eccetera a pagare le multe. Cioè, un sindaco che paga le multe come tutti i cittadini, sarebbe stata una cosa meravigliosa, no Vittorio? È una cosa normale, direi, che meravigliosa. Chiunque prenda una multa, che fa? La paga. Al massimo può fare ricorso se pensa di aver ragione, poi deciderà qualcun altro. Ma non pagare, farsele togliere approfittando, se è vero naturalmente, quello che è stato detto, ma insomma, è un atto di una scorrettezza da deplorarsi senza alcun dubbio, voglio dire. Senti, ma tu riesci a capire il motivo per cui Berlusconi, secondo quello che raccontano tutti, ma forse tu ne sai più di me, è così innamorato di Renzi? Cioè, qual è il vero motivo per cui ha una cotta? Cioè, lo dice anche in pubblico alcune volte, ma proprio una cotta clamorosa. Beh, intanto è una cotta che si sono presi il 40% degli italiani. E quindi tra questi c'è anche Berlusconi. Perché a Berlusconi piacciono. Tra l'altro, se tu, voglio dire, fai qualche confronto, no, tra Renzi e Bersani, che a me poi Bersani è simpatico, ma è chiaro che scegli Renzi perché ha una visione diversa, ha una capacità diversa di parlare, si fa capire, e poi ti dà l'idea di avere un temperamento che poi naturalmente per ora si ferma alle dichiarazioni e non abbiamo visto nulla di concreto, però fa più simpatia che so di D'Alema o da Bindi. Quindi è normale che Berlusconi abbia per Renzi una certa ammirazione, se non altro per come si è mosso, per la giovane età, nonostante la quale egli è riuscito a imporsi a tutta una categoria di cariatidi. Insomma, non si può non avere un minimo di attenzione per questo signore. Cioè, tu dicevi Berlusconi così attento sempre al consenso, a queste cose qua, è chiaro che... Ma non è che il figlio che avrebbe... In politica senza consenso non vai da nessuna parte. Ma non è che il figlio che avrebbe voluto sempre avere Berlusconi un po'... Ma questo non so, perché ha dei figli, cioè è sempre antipatico fare dei confronti familiari, però indubbiamente Renzi in politica è quello che in questo momento piace di più persino agli avversari, a quelli che dovrebbero essere avversari, cioè a quelli di centrodestra, tant'è che mi risulta che molti siano, non dico intenzionati a votarlo, ma sicuramente la tentazione ce l'hanno. Comunque il giornale ormai è diventato Parenzo, una roba. Posso segnalarvi anzi anche al direttore Feltri un principesco tweet della signora, anzi signorina Beatrice Borromeo. Mamma mia, tremenda quella roba lì. Un tweet dei ragazzi, è un tweet agghiacciante. È una parente del cardinal Federico Borromeo. Ora tu sei una capra assoluta, non sai chi era il cardinal Federico Borromeo. Però la signora Beatrice Borromeo, già giornalista del Fatto Quotidiano, twitta: la differenza, cara, è la signora Borromeo che parla, la differenza, cara Pasquale, è che la Madia non leccava il gelato pretendendo davanti a una telecamera che fosse un bisello. Tu sì, hashtag Calippo. Ma non è vero, tra l'altro, è una falsità assoluta. Ma è una falsità assoluta quella che dice. Perché quando lei, come spiega anche nell'intervista, come c'è anche nell'intervista oggi della Pasquale, lei non succhiava quel calippo. La Pasquale non succhiava il calippo per far sembrare che in realtà succhiasse un pisello, lo succhiava per un altro motivo. Vedo che il tema ti appassiona. No, ma il tema mi appassiona semplicemente perché c'è una falsità della signora Borromeo. Cioè, quella roba lì non era una roba ambigua che faceva. C'era riferimento al famoso pompino, ma era una... per parlare per allusioni, no? Ma no, ma, beh, ma ragazzi, ma di che parliamo? Parliamo per cose così, per cioè... allusioni, ma no, rimane. Ma che allusione? Ma non c'è, ma Madonna, per un pompino, ma sì, no, però direttore, per metafore si parla. No, cioè, scusa, appunto, quando Signorini dice adesso voi di sinistra siete diventati dei bigotti, ma una Parenzo volta predicavate il sesso libero, la coppia aperta, adesso sono diventati peggio di Papa Francesco. Ma io non voglio. Ma infatti, no, ma ha ragione. Falla tu la coppia aperta, caro mio amico Feltri. Falla tu, contrario, che ti vuoi fare le carine. Non voglio fare io. Sto dicendo che voi di sinistra per anni avete predicato il sesso libero, le coppie aperte, eccetera, e adesso vi scandalizzate per un calippo. Ma fate ridere, ma per l'amor per di un Dio. Gelato, ma in questo per paese un gelato non si può più neanche scopare. Figurati tu, ma ha ragione. Il paese Vittorio va a puttane e noi non possiamo scopare, no. Ha ragione Vittorio, perché tutta la sinistra intellettuale, politica, si è mobilitata compatta per la Madia. E solo perché cosa? Per un titolo, ci sa fare col gelato. La sinistra italiana, che una volta era rivoluzionaria. Ma cosa c'entra la rivoluzione con la volgarità? La volgarità. Quando facevate i cortei a Milano che spaccavate i crani con le chiavi inglesi, quelle non erano volgarità. Che cos'erano? Quelle erano atti di coraggio e di eroismo. Ma io non ho mai spaccato nessun corteo. Non ho mai spaccato neanche. Ma cerca di ragionare, su, via. Chiedi ma io non ho mai fatto nessun corteo. Ma che c'entri tu? Ma che c'entri tu? Sta parlando in generale della sinistra italiana, tu, e tu che tu comunque incarni in qualche modo. No, io ho letto un libro straordinario che si chiamava, che era un manifesto, che si chiamava Porci con le ali, della signora. Della signora Ravera, ma questo che c'entra, libro... ragazzi, no, parliamo questo... di cose. Cioè, tutte in queste ore, tutta la sinistra italiana che si dovrebbe occupare di altre cose, ce l'ha con Signorini perché ha fatto un titolo che fa riferimento a un pompino. E questa è la verità, che considera volgare, basso, sessista. Ma siete impazziti. Volevo dire a Feltri questo, visto che lui ha fatto l'esempio su quello che gli è capitato a lui, no? Certo, del famoso anello che voleva baciare alla signora, all'amica. Mano, sai che roba scandalosa. Eppure nessuno ha detto niente con quel titolo. Come mai nessuno ha detto niente, neanche tu probabilmente? Ma Ma io non sapevo della vicenda, mi dispiace. Per fortuna che ho una moglie intelligente e che Melania Rizzoli aveva un marito intelligente che ci hanno fatto una risata. Dica. Ma scusami, ma era un modo di fare quello. Eppure ma certo è che passata, no, ma certo che no. Tranquillamente, adesso per un gelatino in bocca, chi se ne frega dei gelatini? Dai, su, poi signorina ha detto pure sì, beh, effettivamente se il gelato lo mangia in modo particolare. Come lo mangi? Con la lingua, con la sì, bocca? Sì, in maniera appassionata lo prendeva questo gelato. Ma dia, ma che male c'è fare una Parenzo, io non ho capito che male c'è. Ma no, per anni hai giudicato. Ma no, guarda che è diverso. Non ma perché è diverso? Perché io. La Madia? Perché ma, la Madia? Ma non ho giudicato nessuno, non ho mai giudicato nessuno io, ma figuriamoci, ah, non hai giudicato. Ma no, se uno si veste in maniera provocatoria, mi piace anche, va benissimo, perché si espone al giudizio. Se una veste con i segni di fuori, ma meraviglioso, va bene, si espone però al fatto del commento. Alle volte possiamo averlo fatto anche noi, visto che siamo in un'osteria. Tra l'altro io mi quello che io dico a Feltri, ad esempio, è che se a me fosse capitato quello che capita a Feltri, ma io mi sarei incazzato da morire, perché magari mi avrebbe messo in crisi la famiglia, mi avrebbe capito appunto, perché pazzeschi. Se hai una moglie cretina succede, no, se hai un marito cretino succede, ma per l'amor di Dio, scandalizzarsi per il gelatino e fottersene perché uno scala la Rizzoli, a me sembra veramente un doppio pesismo inaccettabile e intollerabile. Solo perché si tratta di una donna, non ho capito qual è il problema, perché un uomo non può essere insultato nelle sue cose, teoricamente non può essere, succede la stessa cosa, ma nessuno si indigna. Si sono indignate perché la ministra Madia e perché signorini, dai su, adesso qui non stiamo a difendere appunto. Signorini che non ha bisogno di essere difeso e ce ne fottiamo, il punto e non per è questo. Fortuna che Signorini è omosessuale, perché se non fosse omosessuale lo impiccherebbero in piazza Loreto. Questo è vero, perché alcune volte questa cosa qui ti salva, tra l'altro nei giorni scorsi, oggi Vittorio ha scritto un articolo. Io adesso vado a incontrare un ospite giù, quindi chiudo il telefono in camera. Ma che chiudi il telefono in camera? E che ce ne frega a noi? Che perché chiudi salirò in una macchina e mi avvio verso il ristorante, perché mi avete anche un po' stufato. Senti, ma Fede Cacciato, secondo te ti fa venire un po' di malinconia? Sì, un po' di malinconia, perché per tanti anni Fede è stato considerato una sorta di icona del berlusconismo e poi all'improvviso non si è capito cosa sia successo. Però non voglio dare dei giudizi perché non conosco la vicenda dall'interno e quello che appare all'esterno è solamente uno spettacolo mesto. Senti, ma sei sempre non ti ho sentito parlare delle manganellate agli operai. Considerate quattro manganellate così. Ma non mi sembra che ci siano stati dei feriti gravi, dei morti, no? Eccetera. Io ho visto mille manifestazioni in cui succedeva di tutto e la polizia ne ha prese, ci sono stati poliziotti morti, eccetera. Nella mia lunga militanza come cronista ne ho visti di tutti i colori, non riesco a capire perché la colpa sia sempre della polizia e quando farei dei distinguo. Io non dico che abbia fatto bene la polizia a caricare, io questo non lo dico, poi non ero lì, non ho potuto verificare di persona, però sta di fatto che è sempre colpa della polizia, mentre mi risulta che spesso siano i manifestanti a sfondare i bancomat, a rovesciare automobili, eccetera. Non mi riferisco al caso specifico, in generale. Certo. Ciao Vittorio, a presto. Ciao. Allora, David. Sì. Ci sei? Sì. Certo che ci sono, sto raggiungendo l'ospite, è un appuntamento. Sì. Ci sono. Allora, tu sai che cosa succede ogni tanto al telefono di Emilio Fede, no? Che ci sono manie, gente, che molestatori che lo chiamano. Esatto, quando bravo. Lui non riconosce il numero, so che alle volte si inalbera un po', perché, sì, perché il numero suo anche a noi, che alle volte non ci ha riconosciuto subito, ad esempio. Esatto, come oggi ho provato a un certo punto. Che è successo? Senti che è successo. Sì, sotto, pronto? Pronto, direttore, come andiamo? Tutto bene? Sì, benissimo. Tutto bene? Sì, benissimo. Sì, senti, finalmente ti hanno cacciato. Come si sta? Bene? Sì, sta benissimo. Senti che rimane fra di noi. Alla grande, Adesso mi figlio tua moglie e la porto fuori a fare i pompini e guadagno, cornuto di merda. Sempre tu? No, direttore, io sono uno molto povero. E me dispiace molto, ma tu oggi sei più povero di me. Anche casetta di Milano 2 è andata in fumo. Via, tu hai bisogno di alloggio con me? Io posso aiutare sì, te. Per favore, io posso venire. Se tu hai una moglie o delle figlie troie che fanno i pompini, no? Sicuro, no? Ma io sono single e non ho figli. Sugra, badi bucra, gran figlio di puttana, arabo di merda. Dimmi, oh, pronto? Cucù, direttore. Cucù. Senti? Cucù, direttore. Direttore, cucù, il lavoro non c'è più. Sai che sono dei cornuti, no? In genere sono prostitute o impotenti sicuro, drogati, però fanno adesso il direttore. Direttore, cioè, coglioni, e poi li ho identificati tutti. Di questi qui c'ho la mamma che è una prostituta e che fa pompini, 5 euro, 10 pompini. Per quanto li fai pompini? Dimmi la verità. Cucù. Cornuto di merda, impotente e comunista cornuto, lurido. Anche comunista. Porca la puttana, è andata a fanculo! Siete delle merde! Allora, caro David... Diciamo che il tema mi sembra ricorrente della giornata. Allora, devo dire una cosa, perché mi segnalano che in realtà, diciamo la verità, le cose sono due a proposito del sindaco Marino. O queste multe sono state cancellate con un ricorso, ma il ricorso non è possibile perché il sindaco se no si deve dimettere, oppure se le fatte cancellare. Questo non c'è dubbio. Per forza, dai. Cioè, su questo non c'è... ma ci sono solo immigrati in questa città. Però su questo non c'è ombra di dubbio, ma dov'è finito? Vabbè, Giuseppe da Napoli. Giuseppe da Napoli. Dov'è il caffè Carriera? Buonasera. Buonasera, ragazzi. Chi è questo? Chi è? Pronto. Chi buonasera. È? Caffè Carducci. Ma chi è lei? Pronto. No, adesso... Vabbè, Giuseppe, vai. Buonasera, complimenti per le performance di Fede, sono magnifiche. Dimmi. Una roba leggendaria. Niente, sulla questione di Marino, che dire? Lui si avvale un po' di tutte le situazioni di impotenza dell'apparato italiano, non paga come tutti i cittadini italiani in realtà, che siamo, noi siamo al cospetto di un apparato impotente, anche lui ne approfitta e non paga le multine, anche il sindaco di Roma. Poi non è assolutamente vero che perché dovrebbe dimettersi se fa ricorso. Fa ricorso, se lo discute, se va bene va bene, se va male va male. Quindi voglio dire, va bene così, fa bene a non pagarle. Noi tra i vari lusi, i vari fioriti ci scandalizziamo per 600 euro di multa, mi sembra un po' eccessiva come cose. Ma no, ma non è questione, lei scusi, se Marino si è fatto cancellare le multe, il sindaco pazzesco, di Roma dai. Che si fa cancellare le multe pazzesco, dallo stesso comune per non tirare fuori 600 euro. Se le fosse fatte cancellare sarebbe abnorme, però se non le avesse pagate non vedo il problema. Ma è uguale, ma che vuol dire? Uno le paga o non le paga? Lei dice... Siccome il sindaco e siccome quel permesso si può considerare rinnovato lo stesso, guardi che i cittadini quando devono farsi rinnovare il permesso devono presentare un sacco di carte al Comune di Roma. Sì, ma, sì allora, quando si devono far rinnovare il permesso devono presentare un sacco di carte, però è anche vero che l'80% magari perché non ha nulla da perdere non paga un cazzo, parliamoci chiaro. No, ma ho capito, ma lasciamo perdere, il primo cittadino di Roma deve farsi pagare tutto. Che c'è? Conoscete questo signore che è a mio fianco? Chi è questo signore? Urlatelo forte! Sì, ragazzi, ma stiamo alla radio qui. L'onorevole Razzi è insieme a Parenzo, ma domani sarà ospite qui. Sarà ospite qui. Sta stringendo mani, ma gioventù, ragazzi. Dove sta in Corea, Razzi? Non è un modello, sono Razzi. Sì, ma Parenzo è la radio, devi accostare il telefono alla bocca del signore, se no non si sente una mazza. Ciao, ragazzi, amico mio, dai, Matteo, provincia di Pescara. Mamma mia. Ma lo è un idolo. Buonasera. Qua. Che ti sì, Ha scoperto allora, adesso che è un idolo a Pescara, ho scoperto 20 anni fa io, dai Matteo, provincia di Pescara, su. Sì, allora io vorrei consigliare a Parenzo dove andare a mangiare stasera. Devo fare una foto sti ragazzi, ma non c'è più, allora, giovane ormai. Ma stai scoprendo delle cose che io scopro da anni, stai ripetendo le stesse cose. Che ho capito, ma sto girando per Pescara, come gli danno... Ragazzi, ma perché gli fate la foto con Rani? Scusa, ma che discorso è? Perché è un signore serio che ha degli ideali. Un signore serio che ha degli ideali, stupendo. Matteo, provincia di Pescara, che cosa vuoi suggerire a Parenzo? Sì, allora, dove andare a mangiare stasera? Ma no, ma quello va allora, con Razzi, va con Razzi, dai. No. Allora, ascolta me, dimenticati di Pescara. Ok, allora, o te ne vai al Gallo a Castilenti, o allo Chalet a Città Sant'Angelo. Oppure? Oppure a Margherita a Elice. Vabbè ragazzi, va benissimo, prendiamo nota, però Parenzo andrà col senatore Razzi non so dove. Augusto da Perugia, sono molto invidioso perché vanno in un posto dove si mangia sagne e fagioli. Ma io adesso sto andando a mangiarmi 2 sagne e fagioli lì al Melograno sotto Miglianico. Bravo, bravo, facciamo un po' di pubblicità a questo posto. Sagne e fagioli, Melograno, Miglianico, sagne e fagioli. Mi raccomando, fai bere un po' Parenzo, fai bere Parenzo. No, così stasera lo facciamo ubriacare. Allora, domani 18:30 il senatore Razzi sarà qui in studio, facciamo una grandissima cosa, dobbiamo presentare delle cose nuove, una cosa meravigliosa qui a Milano. Augusto Perugia, Antò, a dopo. Oh, amici, ciao, ciao. Amici miei, come va? Tutto a posto? Dimmi. Ciao, no, voglio dire che con stamattina avevo rotto i coglioni, non se ne può più, ma il governo Renzi, no, diciamoci la verità, il governo Renzi ha fatto uno sponsor a qualche gelataio, perché Renzi mangia il gelato, la Madia mangia il gelato, poi è bravissima, Oh, ma ragazzi, nessuno ha fatto caso quanto è brava a mangiare il gelato la Madia. Beh, effettivamente ci mette un certo impegno. Ragazzi, è una battuta. Mi hanno scassato i coglioni con questa cosa. Ma chi se ne frega? Ma il paese ha problemi. Ma se mangia il gelato il ministro, la ministra no, perché sennò diventiamo Boldrini. Il ministro. E poi sta ministra che mangia il gelato. Ma chi se ne frega? Ma io ho letto sui social network, su Facebook, Twitter, ma basta questo ministro, ma difendiamo le femmine, le donne, ma che è? Ma scherziamo veramente, ha fatto Parenzino, stasera va a pescare e bevi. Dai su, ma mandalo a quel paese Parenzo che è diventato, ha ragione Feltri, quelli di sinistra si indignano che una volta volevano il sesso libero e si indignano per un titolo che allude al pompino. Sono diventati loro i fascisti, sono conservatori, bigotti, sei un salame, il salame mangio a Pescara, che ti piace? Non mangio maiale, non mangi maiale, scusa, perdonami per la religione. Ciao Augusto, hai detto quello che dovevi dire. Alda da Novara. Salve, buonasera. Io volevo soltanto dire una cosa. Parenzo ha perfettamente ragione. Qua c'è un po' di confusione. Il sesso libero è una cosa, la volgarità sono due cose. Ma qual è la volgarità? Diverse. Qual è la volgarità? Non ha detto mangia gelato come facesse un pompino. La volgarità è quell'allusione al sesso anche per mangiare un gelato. L'allusione al sesso adesso è volgarità. Adesso è volgarità. L'allusione al sesso. Ma la smetta. Ma la smetta lei invece di effettuare tracere Parenzo. Il sesso libero è una cosa e la volgarità sono due cose diverse. Ma quale? La volgarità è soggettiva, signor Alda, soggettiva, capito? Non è oggettiva. No, la volgarità è oggettiva, non è soggettiva. Quanto anche per il fatto che lei, per esempio, è molto spesso parla sempre di omosessualità. Perché le dà fastidio? Io ho vissuto in Olanda. Le dà fastidio? Le danno fastidio i frosci? A me dà fastidio soltanto la cattiveria e l'ignoranza. Però posso assicurare che io ho vissuto ad Amsterdam, che tanti anni hanno fatto i matrimoni tra gli omosessuali e tutta questa propaganda di omosessualità in Olanda non c'è. Contro la propaganda omosessuale, quella che lei chiama la propaganda omosessuale, vero Alda? Esatto, perché Lo vedi con chi sei d'accordo, Parenzo? Vedi chi ti dà ragione? No, non è tutto uguale. La signora avrà le sue giuste considerazioni, che lei considera sull'omosessualità, e sono fatti suoi. La questione è: non è giornalismo, non è buon gusto. Vabbè, ha deciso lui che non è giornalismo, ha deciso lui. Ma è evidente, signora Alda, che cosa le dà fastidio di quel gelato? Mi dà fastidio l'omosessualità, ma mi dà fastidio l'ignoranza. Ma adesso che c'entra? Non ho capito, non ho capito, un ministro che mangia col sesso libero. Sì, no. Perché non si vergogna di mangiare il gelato in questo modo? Lo fa un ragazzino, ci può anche stare, ma che lo fa un ministro è ancora peggio. Ecco, ecco la puttanata. Perché una persona veramente che deve avere una certa dignità, una persona che sta là sopra, e quindi lo fa un ragazzino di 20 anni che magari non è nessuno. Ho capito, è un'altra follia. Ecco la cazzata delle 20:28. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardavan. Buonasera e buona Padania a tutti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Barin, Radio Padania contro il sottoscritto, come al solito. Questa è un'altra bombata della Zanzara, sicuro. Ma no, ma li salutiamo. Ieri ci è venuto a trovare anche l'amico che fa rassegna stampa su Radio 24, il Milano, non ho ancora capito come si chiama, Alessandro, bella persona e che non ama particolarmente quelli della Zanzara. La tua terra! Ovviamente Milan non ha detto questo, caro Marin. Ma no, ma tra l'altro ho chiamato prima Milan, ma è vero, no? È un coglione, dice un sacco di cazzate. Tira sotto questo che è un comunista, tiralo sotto. La comunista che non sei altro. Libertà. E mi diceva: Sammy, penso un po' che il Cruciani, la prima cosa che fa appena entra a Radio 24 il pomeriggio, chiede: dai, fatemi sentire cosa ha detto oggi Sammy Varin. Dico: Cruciani, ma io capisco nella vita un po' di sesso. Cruciani, un po' di sesso, anche autoerotismo va bene, mi raccomando, ok? Non pensarmi troppo, io ti capisco, perché nel mondo radiofonico c'è rimasto ben poco, sono tutte radio ingessate. No, guarda, Marin, te lo posso dire sinceramente, stai raccontando una serie di cazzate memorabili, perché non è vero, Milan mi ha smentito tutto quello che hai detto adesso, tutto, cioè hai raccontato un sacco di balle, non è vero che vi ha detto che entro in redazione e voglio subito sapere quello che... Io di quello che dici tu me ne sbatto i coglioni, mi serve solo per divertirmi, cioè mi fai divertire come un matto, cioè questo è tutto. No, è un'operazione, è come andare allo zoo. No, ma no, lascia perdere, porto... che lo zoo, è assolutamente... per me è così. No. Quando io porto i miei bambini allo zoo a Roma, bellissima Villa Borghese, gli dico: vieni a vedere gli animali allo zoo. No, vabbè, stai dando degli animali, vieni allo zoo. No, questo è sbagliato, Le mostruosità che... Stai sbagliando a dare degli animali. Non tutto il palinsesto della radio, ma per le mostruosità che alle volte dicono questi signori, mi sembra di passare in rassegna allo zoo, dove ci sono delle bestie addomesticate che benissimo, stai considerando. Stai dicendo di quelli di Radio Padane che alcuni sono degli animali, per le bestialità che dicono alle volte, che noi abbiamo testimoniato in questa trasmissione. Io adesso sto andando a mangiarmi due tagli e fagioli lì al Melograno sotto Miglianico. C'è sempre meno figa da voi in trasmissione. Allora ragazzi, prima di presentarvi l'ultimo ospite di oggi, voglio farvi ascoltare una cosa clamorosa che è uscita fuori questa mattina dalla trasmissione. Ciao, di Giuseppe. Chi è? Antonio. Che stai a fare? Ti sei fatto passare il telefonino da Parenzo? Stiamo facendo il lungomare di Pescara, che adesso ci andiamo a mangiare due. Ci pensiamo però. Pensatemi intensamente. Poverino, lui sta a lavorare, noi stiamo a mangiare. No, io veramente vado a una festa stasera. Comunque, Antò, un abbraccio, vabbè, ci vediamo vabbè. Domani alle 18:30 qui a Milano. Domani, grazie, caro. Ciao. Allora, una cosa clamorosa che è uscita fuori dalla trasmissione di Milan questa mattina, che si occupava della vicenda Rom. Senti, questo signore, che è uno, lo dico soprattutto a Parenzo, l'associazione dei comitato Rom e Sinti per l'integrazione dei Rom si chiama CISMIC. Senti che dice: non è giusto che stanno sgomberando una casa occupata. Signor CISMIC, amico mio. Il comune di Roma già mattina sta facendo un sgombero. Sì, stamattina? E altre cose ogni giorno. Sì, sì. Stamattina a Catellina 900 c'è una... E perché sarà un campo abusivo, non lo so io. No, un campo abusivo, perché c'è gente che hanno occupato una casetta e loro che cosa hanno fatto? Perché hanno messo occupare una casetta, cioè voglio dire, mica no, cosa... no casette, no, una casa dove lui portava i figli a scuola, sì. Che porta, ecco, integrarsi, ma in qualche modo vengano e mandano via e... Cioè, secondo questo signore non è giusto che stanno sgombrando una casa occupata, perché si devono integrare con l'occupazione di una casa. E dunque non è giusto, capito Parenzo? Non è giusto. No, io dico semplicemente che spesso, su questo caso specifico non lo conosco, ma dico che spesso vengono sì. fatte delle sanatorie per l'abusivismo edilizio che poi ha provocato quei disastri quando la Ma che terra... c'entra, scusa? Ma quando che c'entra? Poi piove un po' e si inonda tutto. Quei cornuti che hanno costruito quelle case abusive. Ma che c'entra? Ma che c'entra? Quindi alle volte si può. Sto finendo il ragionamento. Quindi alle volte si può anche condannare l'abusivismo di chi occupa una casa per fame. Ma quale fame? Quale fame? Smettila, basta con questa cosa. Tu stai dicendo che va bene in qualche caso occupare le case. Vergogna, vergogna. Che di fronte all'abusivismo edilizio. Ma che c'entra? Parli di altri problemi. Poi spesso ci sono fatti dei condoni. Ma che c'entra i condoni? Allora, ragazzi, si discute ancora della vicenda Madia, Gelato, Signorini. Alba Parietti è con noi, ciao Alba. Buongiorno, hai chiamato l'esperta del settore? Beh, l'esperta del settore, io non vorrei dire, no, mi ci spingi te su questo terreno, però su Alba. È evidente, no? Cioè, chiaro, se no... No, io non ti ho chiamato come esperta del settore, ma tu sei esperta di queste cose? No, sono esperta sia di gossip che di cazzate del genere. No, d'accordo, dire, però tu sei... Sono abbastanza... avulsa e abituata assolutamente a dover gestire i rapporti con la stampa, soprattutto chiamiamola di gossip, non la definirei rosa in questo caso. Ma non ho capito, pensavo che fossi esperta di altre cose in realtà. Mamma mia, questo è proprio Dio, l'hai detto, cioè vedi che realtà. No, ma tu scusa, mi hai portato tu su questo terreno. Tu sei reazionario, tanto per cominciare, sei un reazionario, perché tu dici, l'altra sera mi hai usato dire a me che dico delle banalità, ma tu ne hai totali. Appena detta una, ma non mica miei, sempre ma mica sempre dici delle banalità, in quel caso dicevo io non figurati. No, aspetta, poi c'è un'altra cosa fondamentale, cos'è che abbiamo detto? Ah, innanzitutto scusami, io ho accettato questa partecipazione dove dobbiamo parlare malissimo, io perlomeno, tu lo difenderai quantomeno, no, immagino, se vuoi. Perché sei un reazionario, quindi difenderai naturalmente Signorini, l'onore certo. di Signorini, che insomma è due giorni che lo difendo. Immagino. Vabbè, ma perché ti sta antipatico? Io, no, ma ti sta antipatico, Signorini? Ma per niente, un mio amico lo conosco molto bene, Alfonso, lo conosco benissimo. E che cosa ha fatto di male in questa foto, secondo te, pubblicando questo titolo con queste foto? Allora, questo è dire doppio senso triviale e maialesco e come dire da di bassa proprio lega e dire poco, no? Su questo siamo tutti d'accordo. No, io no. Il punto è un altro, che se io fossi nella signora Madia me ne sbatterei proprio allegramente, perché Alfonso, che fa bene il suo mestiere, difatti tutti si saranno fiondati a comprare sta Madia che lei ha gelato, che chi se ne frega, detto tra di noi, il modo migliore di punire Alfonso sarebbe non comprare chi, perché a me personalmente di vedere la Madia col sottotitolo guardate come cosa, non so cosa gli avrà scritto qualche porcata per far capire altre cose. Gelato. Lo conosco bene, Alfonso è un grande maestro nel fare bene il suo mestiere, lui fa bene il suo gioco. Ma stai dicendo che ha fatto una cosa volgare e triviale, adesso fa bene, sei democristiana, da una parte dici che è un grande... Ma la verità, ma far bene il proprio mestiere in Italia vuol dire far guadagnare il giornale per cui lavori, e lui sicuramente ha ottenuto quello che voleva ottenere, difatti ne stai parlando tu. È una cosa volgare, secondo me è una cosa tremendamente volgare. No, è molto raffinato, dirà una signora che sta leccando un gelato, guardate che ci sa fare col ma è una battutina. Ma proporrei una cosa, una bella foto, visto che voi siete per le pari opportunità, tua e di Alfonso Signorini, mentre fate la stessa, anzi tu col calippo. Io col calippo che faccio? Non proprio la stessa cosa. cosa, diciamo. Potrebbe, cioè, così, e poi ci scriviamo sopra, guardate. Cioè io devo mettergli il calippo nel sedere, non ho capito. Crociani e signorini col calippo, ti piace? Cioè devo fare i giochi con signorini col calippo? Ma perché no? Ma tanto dici che è una bella battuta. E ma che c'entra? Ma quella è un'altra cosa, ma sono delle foto di un ministro che mangia il gelato in maniera avida, in maniera... Vabbè, perché un ministro non può... Allora, assolutamente sì, certo che lo può fare. L'ha mangiato anche Renzi il gelato un mese fa. Te Renzi mi sembra che ti piaccia, quindi voglio no, dire... No, veramente non in modo particolare. Vabbè, ma scusa, ma che deve fare, signorini? Sei ruffiano, di conseguenza di sicuro. Ma ruffiana sarai te, ma però, che deve fare? Dire, una donna, chi se io sono ruffiana, no? Sono... Guarda, questa cosa col sessismo, questa cosa di signorini... No, senti, guarda, a me che sono un camionista nel corpo di una donna, queste cose non me le devi dire. Difatti, io se fossi nella Madia, anzi, vorrei dirti una cosa. Oggi vorrei celebrare e festeggiare ad arte, come cavolo si chiama, la mostra d'arte di meravigliosa che stanno facendo a Torino. Adesso ne parliamo. Un attimo solo. Io voglio vedere, signorini, che cosa dovrebbe fare per ravvedersi, secondo quello che pensi tu? Perché per ravvedersi, diciamo, per autopunirsi e per dimostrare che non è affatto una cosa volgare, fare la stessa cosa lui. Cioè mangiare il gelato? Non è il gelato, sì, ma non esattamente nello stesso modo. Ma cioè, in che modo? Scusa, dire, che deve fare col gelato, signorini? Scusami. È una battuta venuta male, anche la mia. Ah, ecco, però appunto. Insomma, voglio dire, Alfonso poi è un uomo di grande spirito, si presta tutto, quindi perché no? Si faccia una bella fotografia. Però cioè tu sei dalla parte della Madia, ma non troppo. No, io non sono una roba democristiana. Francamente non me ne può fregare di meno. Il discorso è un altro. Ah, per dire, sono molto più affezionata ad Alfonso che alla Madia che ho visto tra però volte ho fatto una cosa volgare, hai detto. Il discorso è un altro. Finché noi donne ci incazziamo, la verità è che se ci fosse un popolo di italiani con un minimo di cervello, uno non se lo compra il giornale, no? Perché diceva bisogna fare lo sciopero di chi? Ma non lo sciopero di chi, non me lo compro perché non mi va di una battuta doppio sensista, trivialista. Ma che trivialista, una battutina in non è da questo che si capisce se un ministro è bravo o no, di conseguenza non la farei neanche lunga se fossi nella Madia, perché basta anche con questa storia. Io sono d'accordo con te, sto sessismo, a forza di parlare dei popoli, delle donne, le quote rosa, stronzate qua, eccetera. Scusami, dico stronzate perché francamente le donne non hanno bisogno delle quote rosa per occupare. Ci sarebbe un po'. Senti, a proposito, mi dicono che a Torino c'è una mostra a Palazzo Cavour che di Cattelan, cioè organizzata da Cattelan, Sheet and Dye, progetto espositivo di Artissima, in cui c'è incredibilmente il tuo culo. Vorrei sapere perché dici incredibilmente. Il mio culo è stato pubblicato dai più grandi artisti del mondo, vedi da Newton chi? Al Museo di Berlino, l'unica donna pubblicata sono io, con faccia e cioè e tu culo. Sei orgogliosa, critichi signorini, ma sei orgogliosa che hanno pubblicato. Secondo te io dovrei essere dispiaciuta? Io dove non arrivo con la testa arrivo con il culo. Culo, caro. Sì, ti piacerebbe, vorrei quel giorno in cui faranno un calco delle tue terga o piuttosto che del resto, voglio sul dire, culo, ammesso che a qualcuno possa interessare. Voglio vedere se non sei contento. Sei uno dei più grandi artisti del non è stato lui, però mi dicono. Non è stato lui a farti a dipingere il tuo culo. Come no? No. La sua squadra, cioè quelli che fanno questa mostra. Mi vuoi togliere anche questa. Non è di Cattelan, mi dispiace, ma non è di Cattelan. Abbiamo scoperto che non è di Cattelan. Adesso tu hai fatto questa scoperta. Io non ne sono affatto sicuro perché a me invece mi hanno dato per certo che era di Cattelan. Ma che sia di Cattelan, che non sia di Cattelan, oggi non si è parlato d'altro che questo. Ma che non si è parlato d'altro? Ma quando mai? Esatto, io lo vedevo, andavo in giro per la Milano. Cioè tu sei orgogliosa? Cioè, guarda, Cattelan ha fatto un quadro col mio culo. Devo dirti che non è un culo bello, però io ce l'ho davanti, ce l'ho davanti. Senti, non il tuo, questo qua del quadro, questo del quadro. Parpiglia dei ricchi, no, non mi sfinire con queste cose. Che hai detto? Davvero. Scusa? Che hai detto? Parpiglia dei ricchi. Perché ci sono io guarda, dei poveri, se c'è una persona che lontana mille miglia dal nome che hai pronunciato, quello sono io, non ti preoccupare. Non osi neanche pronunciarlo ma, tu. No, ma io non ho, io un po' mille miglia. Adesso amico tu mio. Ne approfitti perché la gente da casa non può vedere il quadro, ma è quello, ti assicuro. Ci sarebbe il senatore Razzi che su questa augusta conversazione vorrebbe un attimo interloquire con la signora Parietti, visto che stiamo parlando di temi. Come dire, forse anche ecco, senatore Razzi, a lei piace Alba Parietti, senatore Razzi? Pronto? Senatore Razzi, a lei piace? Ma è quello vero? Sì, quello vero, certo. Ma guarda, io l'ho ammirato alcuni giorni fa in televisione perché da molto tempo che non la vedevo e io l'ho vista come un buon vino, più tempo passa più buono è. Beh, guardi, lei è veramente... Cioè, Cioè, intanto ti ha dato della vecchia, intanto ti ha dato della vecchia, così. Infatti questo lo volevo sottolineare. Comunque, sostanzialmente, complimenti che io dico del tu perché siamo giovani, ti ho sempre ammirata. Ma scusa, ma anche di corpo, anche il culo, questo famoso culo ritratto da Cattelan. Tu eri uno di quelli che quando la Parietti, mai... quando la Parietti era la Parietti, non adesso che vabbè. Io non l'ho mai toccata, però guardando in televisione, come si dice, il buongiorno si vede dalla mattina. Cioè ti sei un po', come dire, quando vedevi la Parietti in televisione ti sei un po', come dire, emozionato adesso per non dire una... abbiamo capito, sì, abbiamo capito, amico mio. Che ti succedeva? Anche a te faceva questo effetto, caro Antò? C'era un tuo sogno, era un tuo sogno, no? Beh, come no? È il sogno di tutti. A meno che ne è qualcuno che non fammi parlare. Qualcuno ricchione, dici tu, no? Diciamo, vabbè, donne, è chiaro che magari, però anche quelle, io guarda, conosco parecchi. Di che? Di proci? Di gay, omosessuali. Però anche loro guardano e apprezzano le donne. Donna. Vabbè, comunque sai, Alba, come si chiama questo quadro? Il titolo di questo quadro? Tu non sai manco come si chiama sto quadro? No. Si chiama Piccolo Culo. Perché mica è grosso. No, ma questo volevo dirtelo. Grosso, allora, volevo darti due altre informazioni. Il quadro non è di Cattelan, ma è stato curato da Cattelan. Ma non importa. Non importa. Di Cattelan, è stato curato. Ripeto, e si chiama Piccolo Culo. Piccolo Culo. Hai detto niente. Ma tu hai il culo piccolo? Certo, perché tu sì, cioè, perché mai presa? Ma sodo? Ma che te ne fai? Ma vedi, queste tribali, ecco perché poi ti trovi bene nella tribalità totale delle frasi dell'Alfonsa, voglio dire. Ti piace? Io non ho capito, sodo o no? Ma te che te ne frega? Ma ti piace? Sei esaltata dal fatto che Cattelan ti ha fatto il culo? Ma tu mi pigli tutte le volte cosa pazzesca, guarda. Per una deficiente. Ma no, ma dai, su. Ecco, tutte le volte tu pensi che io ti dia delle risposte cretine. Tipo, ma no, cretino. Sì, certo, il mio culo è sotto io, ma mi sembra una risposta. Vabbè, allora è brutto, vai, mollo. Ti abbraccio, ti do un bacio, ciao. Anche a te, ciao. Ciao, ciao. Manuele, provincia di Udine. Parenzo e Razzi, andatevene, va, che mi avrò rotto le scatole, va. Andate a mangiare, ciao, sì. ciao. Manuele, ciao. Provincia di Udine. Pronto, Cruciani, mi sente? Vai. Buonasera, salve. Ascolti una cosa, su Signorini e la Madia, partiamo col presupposto che a me la Madia mi sta sui coglioni, la considero una prostituta della politica, come la Moretti. Allora? Sì, bersaniane, dopo renziane. E allora? Però mi scusi un attimo, quando è andato a farsi l'intervistina la signorina Rubi ruba cuori a quel programmino che è una troia e invece ha fatto vedere che invece, ma chi poverina, signorini dici, il signor Signorini eccetera, e l'ha trattata come fosse una damigella di corte, santa, brava e bella, ma mi faccia la cortesia, Signorini, che vada a fare in culo anche lui, guardi, e le chiudiamo dico, in questo modo, e chiudiamo auguro buona serata, vi abbraccio tutti, domani 18:30 sempre se siamo vivi, perché non si può mai dire questa notte quello che succede. Ciao. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi, quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24, la passione. Si sente.